Radio Wombat. E stasera è la storia di produttori, MCs, DJ che hanno a che fare con l'hip hop, il rap e qualcosa di astratto all'interno di questo grandissimo genere. E inizia così con Adrian Hughes. Ripetiamolo, questo era Adrian Hughes con il pezzo Turn Down the Sound, tratto da Something About April del 2011 per la Wax Poetics Records. Adrian Hughes è un compositore, arrangiatore, bassista. Negli anni 90 ha suonato un sacco e poi ha esplorato un po' l'elettronica con i synth analogici e ha nutrito una forte passione per le colonne sonore. Infatti Something About April è un'ipotetica colonna sonora di un film mai uscito. E vorrei parlarvi ora di un personaggio chiave di questa puntata che si chiama Chris Manack, ma è conosciuto come Peanut Butter Wolf, che sono quasi tutti americani stasera. E appunto il fondatore della Stone Throw Records, che è un'etichetta che cura prevalentemente rap, hip hop, in una forma assolutamente ottima e di qualità. Ha fatto alcune cose già negli anni 90, come il pezzo che vi sto per mettere, che è tratto dal disco My Vinyl Weighed a Ton. Il mio vinile pesa una tonnellata e anche un po' un riferimento a un brano del primo disco dei Public Enemy che si chiama Muzi Weighed a Ton. Il mio Uzi pesa una tonnellata. Comunque, questo pezzo è il primo dopo la breve introduzione del disco e si chiama In Your Area, che è con questa featuring di Planetaria che non so chi sia, però è bellissimo e pompiamolo. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up? Planet Asia, peanut butter, what? Planet Asia, Fresno's in your area. Schoolyards in your area. 93706 in your area. Frisco, the Bay Area. San Mateo's in your area. Oakland's in the area. San Jose is in the area. A Berkeley's in your area. Yo, we taking care of ya. So come along and I'll lead you the right way. I'm here to set it on ya, direct from California. Central Valley Asian, Planet Asia's on the corner. Letting it be known that when it comes to the squad, we mega serious to be the most interesting involved in this rap shit. I place my part just like a barber. I never sat the bench, I represents just like a starter. Catch me back and down your breezy, just that easy with that nigga Carter. At the hot spot, staring at all you haters, I rocks baggy like a skater. I never been a dater of a ugly duckling. Top notches, I stay abducting off the earth and took the hovercraft saucer of flying up in something. But later for that, cause it ain't all about sex I'm into. Making fat music massive, all about checks to cash. My third eye x-ray through these plexiglass. Rappers that end up in my sight. I might test that ass, solid as I rock, static like blocks, get at it, chop. Massive slang practitioners be the next to drop. Massive slang practitioners be the next to drop. Schoolyard slang practitioners be the next to drop. And if you don't know, now you know we keeping shit hot. Peace to Shake, peace to Liquid, peace to Cuban. Protests, the trendsetters, Obi-Wan Dab, Epic and DL. What up? Fourth Dog, Supreme, Kemet, Soul Father Rascal, Fanatic, Peanut Butter Wolf, let me bless it. Ed ecco, questo è Peanut Butter Wolf, il fondatore della Stone Throws Records, che insomma acquisisce un po' rapper e produttori che insomma fanno basi veramente improbabili, tratte da brani tra i più assurdi, anche dal prog. Da robe musicisti elettronici, da composizioni alla Love Boat, insomma di tutto di più, frammentata, messa in loop e acquista una valenza totalmente differente e abbastanza squilibrata per la psiche. D'altronde siamo su 8 Hz, quindi c'è sempre uno squilibrio psicologico nella trasmissione. Un altro grandissimo che è uscito, la maggior parte delle cose sono uscite per proprio per l'etichetta di Peanut Butter Wolf, è Otis Jackson Jr., conosciuto professionalmente come Madlib, che è appunto anche lui produttore e tutto, è stato tra i personaggi negli anni 2000 più influenti nell'hip hop, che vale quindi assolutamente non commerciale, anche se penso qualche soldo ce l'abbia fatto. Tante collaborazioni e tanti nomi diversi. Appunto, Madlib è quello più conosciuto, però a seconda di chi, con chi suonava, prendevano forme differenti. Ha fatto alcune cose molto belle con MF Doom, e in quel caso la cosa si chiamava Mad Villain. Ha fatto delle cose con J Dilla, come J Lib. E quindi insomma è difficile anche riuscire a capire bene tutti i suoi movimenti, diciamo, poetici. Comunque, il pezzo in questione è tratto da un album, ne ha fatti due o tre, credo, sotto questo nome si chiama Quasimoto. Ha creato un personaggio un po' buffo, un po' colorato e depresso, allo stesso tempo, che praticamente la voce è pitchata in alto, quasi come uscisse da un fumetto. Comunque, ne sto parlando troppo perché i pezzi sono corti. Il pezzo si chiama Basic Instinct, tratto da Unseen del 2000, sempre per Stone Throw, ovviamente. We got the basic instinct to keep the party live. We got your niggas open, hit you with the party vibe. I'm cruising like skating in Central Park, up in Venice, across portraying the menace. I got the 40 on my lap, my tape playing boom bap. The nigga next to me talking about. I said, yo, chill with that. We ain't having no black on black. I gave him a slap on the black hand side, put out a fat sack. Now we spark the law every day of the week. Keep a nigga from getting tweaked up inside this piece. I fall on niggas like a rain shower. When I reckon up the scene, we bring the pain loud and wild. Quasimodo rock on and on. Quasimodo rock on and on. Till the break is on, we rock on and on. Till the break is on. Quasimodo rock on and on. Till the break is on, break it on. Yeah, we got the basic instinct to keep the party live. We got y'all niggas open, hit you with the party vibe. It goes yes, yes, y'all, to the beach, y'all. We will leak off out in the streets, y'all, through your auditory walls. Never take a fall. Just call on Lord Cross, you know we'll always keep it raw. Like my nigga Mad Lip, we manifesting from the west. No one contest, I keep myself free from stress. Plus, I drop in sight like Mike Mineri. I keep my cherry on top, but that's from Blackberry. But anyways, Quasimodo rock on and on, to the break of dawn. Quasimodo rock on and on, to the break of dawn. Quasimodo rock on and on, to the break of dawn. Immortal Wombat, stasera ti ricopriamo. Capito? Non ci siete solo voi che conoscete il rap. Qui si viaggia su altri binari, belli. E qui partì la sfida. No, scherzo. Li saluto tanto, fanno sempre dei bellissimi programmi. Però così, insomma, un po' di sfida ti viene un po' da immaginare, da pensare, sempre in modo molto carino. No, no, non è vero. Scusa, ho il mio diavolo sulla spalla che mi dice delle cose che non devo dire. Comunque, abbiamo parlato di Madlib che ha avuto a che fare con MF Doom e J Dilla e adesso li metteremo. Di Doom ne abbiamo già parlato, è il tizio mascherato che a un certo punto della sua carriera ha visto bene, coerente col suo personaggio, di mandare altra gente a rappare al posto suo e la trovo una cosa geniale da fare. E ovviamente sono state forti lamentele tra il pubblico. Però il pezzo che mettiamo è tra le ultime cose, insomma, del 2009, quindi proprio ultimissima no, è tratto da un disco che lui si chiama solo Doom, si chiama Born Like This. Il pezzo è Gazillion Year, è buffo, è curiosissimo, che anche lui fa autore di basi improbabili, sulle quali si rappa con grande stile. Il sample che riconoscerete benissimo è di un pezzo famosissimo di Giorgio Moroder,

ha fatto anche delle cose molto particolari. Purtroppo morì nel 2006, proprio poco dopo l'uscita del suo disco Donuts, per la Stone Throw Records. Però già nel 2003 la Stone Throw ripubblicò una sua demo che si chiama Rough Draft, e in questa demo ci sono dei pezzi bellissimi, tra cui quello che vi metterò ora. E qui io vorrei aprire una parentesi all'interno della puntata, parlando appunto di un certo tipo di hip hop che non è solo la botta dura come spesso ascoltiamo, o la botta commerciale molto yeah yeah mi struscio, ma è anche qualcosa di parecchio diverso. E quindi questo secondo me è un pezzo che ci sta bene per aprire una sorta di discorsino piccolo, per carità, sull'abstract hip hop o rap in generale. Insomma, ascoltatelo. Tra l'altro, se vi capita di vedere, di ricordarvi il nome di questo pezzo, si chiama Nothing Like This, c'è un video bellissimo che calza a pennello con la musica. È un video d'animazione ufficiale, appunto, non mi ricordo chi l'ha girato e disegnato. Comunque sul tubo lo trovate sicuramente. Adesso J Dilla, Nothing Like This. Bellissimo, stupendo secondo me questo pezzo, da delle emozioni particolari, uniche. E andando avanti sempre su questo tipo di sonorità, un altro mago dell'hip hop verrà messo a brevissimo, si chiama Mike Ladd, che è di Boston. Appunto anche lui spazia molto tra i gruppi di riferimento, addirittura cita anche Minor Threat, che voglio dire, insomma, con tanto di cappella, insomma. E mi stupì questo pezzo tratto da Nostalgator del 2004, con un caro armatone disegnato in copertina, che è uscito per la Studio K7. Si chiama How Electricity Really Works. L'ho trovato veramente bello. E quindi ascoltatelo, Mike Ladd. How electricity really works. The buildings are made of lightning. Benjamin Franklin in eternal shock. Kite with key in hand after all these years. He is the ghost atop these towers, jumping from peak to peak like Jack Frost or Sandman. Fairy-like from a distance, haggard and shell-shocked up close. His skin sags like muddy bags of rocks hauled from a mine. His clothes tattered and singed, he glows from radiation. It has been so many years. Oblivious to praise in his honor, his chateau in history is vacant, bored with paintings by Danes of make-believe Negroes at ambivalent feet. He discarded letters and chess for fire from clouds, delving in the games of gods, basking in new decadence beyond women in Paris and the death of Indians. Something supernatural, the harnessing of energy. Electricity man. Thunderstroke junkie, fiend for sky crack, circuit surfer illuminating home by home at the speed. Philly, New York, beyond, bringing to life toys and boys' bedrooms. A Tinkerbell from hell, a Rumpelstiltskin with weaponry. His knickers still smoking. In wasted glee, he keeps us well lit, alive with syphilis caught from power. His eyes swirl like peppermints gone wrong. This deist, defrocker of Jesus, now frocked in Orisha robes, a sucker for Ishu, Ogla of Ogun, jockeying for position with these gods, stuck in second with Santa Claus. Demigod limbo aspirations kept him alive all these years. General Electric is a loan shark, its hounds and sunglasses wait in Pontiacs to catch Ben, jumping light to light in their line of fire. Old Glow, they call him. Con Ed can't find him, not even by satellite. They take our money with the ambivalence of vacuums. And we pay, hoping for a glimmer. We drop checks in mail slots like teeth beneath pillows. Dance a little, smile, and praise the crackhead running our appliance. Old Glow got us humming, rubbing raw the carpet, clinging together, ravaged by static, searching for the kite, grabbing at the key. Troviamo veramente tantissime cose di generi tra i più disparati, dalla psichedelia al jazz, alla primissima forma di hip hop, come potrebbero essere i Last Poets, che appunto. Non sono proprio, non c'è proprio del rap, ma c'è una prosa con un testo ben preciso e assolutamente non ingenuo. Per cui, grande Mike Ladd. E, ora, cioè, sentendo questo pezzo, mi è venuto in mente di collegarci a un altro che non è hip hop, ma tanto siamo sottoterzi e quindi succedono queste cose. Mi ha ricordato un po' l'aria di un brano di Papa M, che appunto che era il chitarrista degli Slints e ha fatto tante altre cose, fondamentalmente post rock, comunque è tratto da uno dei dischi suoi che mi piace particolarmente. Si chiama Whatever Mortal del 2001 e il pezzo si chiama Rusty. Mi ricorda anche un po' io, Rusty the Clown, che si chiama Krusty, però vabbè. C'è qui qualcuno della Brusca che bacchetta. Papa M. Play by the Simpsons. George Washington, play by... grande Papa M, ovvero David Paggio, che secondo me ci sta benissimo nell'arco della puntata e di questa sottoparte della puntata che spazia un po' nell'hip hop più astratto e surreale. Surreale è un aggettivo che è stato dato proprio ai Cloud Dead, che era un terzetto, se vogliamo definirlo così, in modo un po' gezzato, che ha agito negli anni 2000 e ha fatto un paio di dischi, ma molto molto significativi, e qui appunto si spazia da, veramente da qualcosa di surreale allo sperimentale, ma anche a qualcosa di indie rock, volendo. E vabbè, comunque vi metto questo pezzo, che è il primo pezzo del secondo loro disco, si chiama Ten nel 2003, e si chiama Pop Song, e così potete anche un po' capire, se non conoscete, quali altri modi ci sono di fare hip hop e di rappare che non siano commerciali. The wooden woman and her hollowing out. The wooden man and her splintering self. The wooden woman and her hollowing out. The wooden man and her splintering self. The wooden woman and her hollowing out. Like we're talking about harassing machines and then one thing and another. So maybe Head con Pop Song, tratto da Ten, che è il loro secondo album del 2013. Who is this? I Clawdead, che sono Why, Those One e Odd Nosdam. E proprio di Odd Nosdam ora vi voglio parlare, vi voglio far ascoltare un pezzo. E tra l'altro lui è anche legato ai visual, per cui se trovate qualcosa in rete gustatevi anche i video che fa. È anche il fondatore di una label abbastanza importante che si chiama Anticon, che appunto fa queste cose tra l'hip hop, il jazz e cose sognanti e squilibrate. Il pezzo che vi metto è uscito per l'appunto per la Stone Throw, il disco, scusate, che si chiama Sisters, che è del 2015. Il pezzo si chiama Profane Bong Su. Ascoltatevelo, secondo me, a mio parere, si è dato un po' all'Ethereal, Odd Nosdam. Thank you. e siamo quasi a luglio e questa radio è partita nel lontano ottobre del 2016 quando pioveva e faceva freddo. Radio Wombat ha una vasta gamma di programmi di tutti i tipi, per tutti i gusti. Guarda che bello spot. E appunto, tra i tanti c'è Tonight Alive con dei live e delle retrospettive incredibili di ogni genere, dall'elettronica alla guerra tra DJ nei club degli anni 90 e 80, musiche, live, concerti, hard rock, free jazz, di tutto di più veramente. La fuga del gatto di classica, programmi come Passaggio a Nord-Ovest, che sono dei giornali radio, si può dire, su tutte le problematiche della Piana e di Firenze. Soul Time, che come può già dal titolo, insomma, potete capire un po' di cosa parla. Slick Chick, che è un po' simile a 8 Hertz, nel senso che ci sono dei collegamenti assurdi a seconda delle tematiche. 3000 siepi di aneddoti sportivi collegati alla musica. L'Accademia della Brusca, di linguistica e musiche alquanto trash, ma non solo, insomma, a seconda di quello che ci può stare testualmente nei brani, che può insegnare qualcosa, ecco. Mortal Wombat di rap, e stasera gli facciamo le bucce, ma già l'abbiamo detto. Urudi, prevalentemente sulle musiche africane, e poi non mi ricordo più. Comunque guardatevi il palinsesto sul sito, che è wombat.noblogs.org, ma se ci state ascoltando vuol dire che lo conoscete. Date un occhio sul Facebook e sui Twitter per vedere un po' le notizie su cosa verrà messo nei vari programmi, e scriveteci su postawombat@insiberia.net, che è molto importante anche per eventuali future trasmissioni. Ma ricordatevi che questa è una radio libera, per cui non facciamo niente di fighetto e niente che vada contro alcune basi etiche nostre, ecco. Comunque abbiamo un po' finito di sognare con tutta questa ramanzina su Radio Wombat, e ci concentriamo ora su l'hip hop sempre più assurdo, sempre più in questo caso radicale, come sono i Company Flow, che era un gruppo capitanato da LP, che dopo ne parleremo, insieme a Big Jazz e Mr. Len, e questo è tratto dal disco che si chiama Fan Crusher Plus del 1997, perché a un certo punto arrivarono loro e distrussero un po' tutto con il loro atteggiamento. Si chiama Bad Touch Example, che è il primo brano del disco. È qualcosa di semplicissimo ma incredibile. Since you're my special friend, come closer for a special treat. I'm going to let you touch me in a special place. It is never okay to touch someone else's private parts. Your mom and dad will tell you so. Yo, I get live like Tupac, getting shot in the lobby. Most MC styles is robbery of my freestyles as a hobby. I pick apart monkey brains and spread disease through hot zones. My cameos on promo seem strange, like someone's not home. Big just the outsider. Rain on your dream field with styles so freaking wet, niggas need maxi panty shields. Expose more moles out the closet than lead paint on your tenement. Got more black thought to my root than most niggas got in their pigment. It's the baby face lieutenant with with the luck like Luciano. Hardcore like Coochie rap music made for concert piano. So dust off the candelabra. Hip hop's version of the Super Dandana with the license to give more ass whippings to father. You couldn't see me with my nose. I'm telling myself like telepathy. Make most crews disappear like blackheads on oxy cream. Under the lights, I fuck up nights with my uncanny ability to heat seek through brain facilities with the science of microchemistry. The history of my hip hop is too deep to be dissected. And bitch, if you can't recollect, don't even half step or try to test it. Black Big Just, I dropped so much shit my anus needs an ice pack. In fact, of all that, LP, you'll bring the horns back. Yes. Right through the center of your focus. You are correct, sir. A long silver needle piercing the outer lens of your eye. And once again, in one verse we prove we can rip all these signed big budget motherfuckers. Peace to Stretch and Bobbito. Bobbito! Ye old lyrics are fire. Surface bombs from X-Wing fighter stands to B-Boy. Actors fracture. Negative 30 below wind chill factor. The counteraction is just a helpless action of the hapless flinching. My supersonics leave you mute like Maggie Simpson. Taxidermist LP out of fly translation. Instigated setting quakes throughout your whole situation. Practice exposing perfection like Ricky Lake exposed white trash. My shit is strange. X-File number 267. Whiplash. Triple. Felon MC minus the melanin. When I bomb with the type of shit to make baby Jessica jump in the well again. Sunshine. I rain acid, LP, the battle master lactose, breaking down your fucking fractals till you're flaccid. I'm leaving Las Vegas like 100 flying Elvises. Raid, spot my prey, swoop down and crush their pelvises. Rock nerve like Danny Crow smoke, bitch. Catch my frozen frame suspended. You couldn't even fuck with my idol fidgeting. My birthright, I'm pulling swords from stones, hot toes beam. Phonetically aborted, try to distort it and catch a silent scream. Venus, the raw daddy tactics, prove, crush, groove, unstoppable, test of luck. It's like sucking on lead paint popsicles, the enigma. No one can fuck with me, but still I'm not. You wanna battle? It's better to look in a mirror. Say Candyman 5 times. Just a promo. Understand? Candyman. To be the man, you got to beat the man. Me and Big Just, Company Flow Clan. Mr. Lang, what's up? 9.9. Can't give me that shit every time. Big Justin, TNS, the almighty LP, the Imperial DJ, Mr. Lin, Company Flow, swinging it to you live for 95. Company Flow, e questo è siate su 8 Hz di Radio Wombat, 8 Hz. Sempre a parlare di e a farvi ascoltare di musiche, brani, sonorità intrippose che arrivano al cervello in un modo secondo me particolare o anche al cuore volendo. Appunto dopo i Company Flow vi volevo fare ascoltare LP, che è proprio uno dei tre elementi dei Company Flow, che è LP come il prodotto, è il produttore, diciamo. È uno di quei personaggi che, se vi intendete un po' di basi, la sa veramente lunga. Ogni secondo è ricercato, ogni minuto è ricercato, ogni suono è ricercato. Questo pezzo è tratto da I Sleep When You Are Dead del 2007 della Definitive Jux, che è pure la sua etichetta, perché ricordiamo solo che tutti questi produttori, ma produttori non nel senso di ti do i soldi e ti produco un disco, produttori nel senso che producono musica proprio, proprio in questo senso qui, che credo sia il senso migliore di dire produttore. Comunque tanti di loro hanno appunto formato delle etichette nelle quali ci mettono il loro zampino, un po' come i vecchi produttori degli anni 80 e 70 hanno fatto con il rock, l'hard rock, il pop, il metal, che ascoltate tutti i giorni pure al supermercato. Questo pezzo si chiama Talisman Pain Coaster, ascoltatevelo tutto perché ha tantissime variazioni, tantissimi passaggi

that. In other words, I'm trash, glad you asked. This is a sign of what you don't know, killing you. This is a sign of what you don't believe, still true. This is a sign of what you don't want, stealing you. DPC, motherfucker, cop a feeling to. This is a sign of what you don't know, killing you. This is a sign of what you don't believe, still true. This is a sign of what you don't want, stealing you. DPC, motherfucker, cop a feeling to. Eccoci qua di ritorno da questo viaggio incredibile con questo pezzo di LP, El Productor, affrontando un altro nuovo viaggio qui su 8 Hertz, un viaggio dei Massive Attack insieme a Mad Professor, che nel 95, che ormai è così lontano, anche se mi sembra così vicino, fecero un disco che insieme che era un remix di Protection, un loro album famosissimo, che si chiama No Protection il remix, nei quali appunto Mad Professor mette lo zampino, mette mano. Ricordiamo che Mad Professor è un luminare del dub e quindi dei delay. Il pezzo che ho ascoltato l'altro giorno, ho detto forse ci sta bene insieme, accozziamocelo, va. Il brano originale era Better Things, con Tracy Thorn alla voce, che è la cantante bravissima degli Everything But The Girls, che erano un gruppo degli anni 80-90, di tutt'altra specie. Nel disco No Protection si chiama Moving Dub e secondo me è stupendo, minimale al punto giusto e anche un po' linciano. torniamo a parlare della etichetta Stone Trove attraverso un altro personaggio che sta facendo delle cose a world music in generale, ma più che altro nelle zone asiatiche e africane, per fare delle sorte di mix di musiche, perché sono abbastanza corti. Il primo è tratto da Dottor No Ethiopium, e quindi ha sonorità ovviamente più africane, e il secondo si chiama Dottor No Experiment del 2000, per cui fatevi un po' il vostro viaggetto, o no. Ci mixo Gonja Sufi, Cowboys and Indians del 2010 della Warp. sempre più in Endless, arriviamo alla fine. Dopo Concha Sufi, l'outsider per eccellenza, scovato dalla Warp, ovvero un'etichetta prestigiosissima di musica elettronica, IDM, quindi non hip hop, siamo arrivati alla fine e più o meno ripartiamo da dove siamo partiti, da Pilot Butter Wolf, sempre dallo stesso disco My Vinyl Waited On, però con un brano diversissimo da quello che avete ascoltato. Grazie a lui tante cose belle sono uscite per la sua etichetta che si chiama la Stone Throw Records. Questo è Casio di Pilot Butter Wolves, dove si cimenta virtuosisticamente con i piatti. Noi ci sentiamo giovedì prossimo, Terz, buonanotte. Buonanotte. Terz, buonanotte. Yeah.